Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori, questa sera parliamo di competitività, parliamo di industria italiana, parliamo di tecnologie e lo facciamo sulla base di un libro edito da Guerini, un libro scritto da Sesto Viticoli e Luigi Ambrosio che ha una prefazione di Renato Ugo e Alberto Quadrocurzio, si intitola The Key Enabling Technologies, un'occasione per la competitività del sistema industriale italiano e abbiamo in linea il professor Renato Ugo. Buonasera professor Ugo. Buonasera. Renato Ugo è presidente della IRI, l'Associazione Italiana per la ricerca industriale, accademico dei Lincei, professore emerito all'Università di Milano e anche il professor Alberto Quadrocurzio. Buonasera professor Quadrocurzio. Buonasera. È vicepresidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei, professore emerito di economia politica alla Cattolica di Milano che appunto hanno introducono questo libro che è un po' un'illustrazione di quello che si sta facendo in Italia su questo fronte, sul fronte della competitività, sul fronte delle tecnologie, con un'ottica molto particolare per quelle che possiamo chiamare le tecnologie che danno la possibilità di fare innovazione. Professor Ugo, mi dà la definizione esatta di Key Enabling Technologies? Definizione sono quelle tecnologie che si stanno sviluppando molto rapidamente nel mondo, che trovano applicazione in moltissimi settori, per cui si chiamano diffusive, enabling, cioè sono tecnologie chiave per cui la tecnologia di base, che è una tecnologia, che è un aspetto puramente scientifico di altissimo livello, trova poi ricadute in moltissimi settori applicativi. E questo è un potenziale enorme, perché permette di fare un grosso sforzo di ricerca concentrato in un solo settore dal punto di vista scientifico, ma poi le ricadute sono enormi su tutta su una larga parte delle attività industriali e anche dei servizi avanzati. Ecco, in questa prospettiva l'Italia, che si dice sia in ritardo sul fronte dell'innovazione, soprattutto sull'high tech, sulle alte tecnologie, sull'informatica, sulle telecomunicazioni, in questo settore può, anzi ha e può avere una prospettiva di crescita. Ma il libro è stato scritto appunto per questo, per dire, nelle nostre università, nei nostri centri di ricerca, anche negli enti pubblici, queste tecnologie trasversali sono curate e in alcuni casi abbiamo anche dei livelli di eccellenza, per cui abbiamo tutto il potenziale scientifico che, se venisse usato nella maniera opportuna, se si aprisse il meccanismo di ricaduta sul sistema industriale e se il sistema industriale capisse che avere anche un pizzico di queste tecnologie potrebbe far aumentare la loro competitività anche in settori non ad alta tecnologia, anche in settori di media tecnologia, perché poi le ricadute sono non soltanto limitate all'alta tecnologia. Questo potrebbe essere un fattore, un momento opportuno, cioè si deve vincere il concetto di ricerca precompetitiva. La ricerca scientifica o anche industriale non può essere precompetitiva, deve andare direttamente al mercato. Ecco, io chiederei al professor Quadrocurzio, nei suoi articoli sul Sole 24 Ore, soprattutto nell'ultima settimana, ha particolarmente insistito sulla competitività delle industrie italiane, sul fatto che il manifatturiero deve restare al centro della possibilità che c'è di crescita economica. In questa prospettiva, professor Quadrocurzio, le tecnologie applicate dall'industria italiana possono dare questa competitività? Io credo di sì e credo anche che la manifattura italiana abbia dimostrato negli ultimi 20 anni, che sono stati anni molto complessi sia per una fortissima competitività dei paesi emergenti e anche di paesi che già sono emersi e sono molto molto aggressivi come la Corea del Sud per esempio, sia perché l'Italia ha dovuto affrontare quel passaggio valutario da una valuta debole a una valuta forte. Ebbene, la manifattura italiana ha fatto dei passi avanti giganteschi ed è per questo che essa è in una sua fetta significativa assai competitiva, con surplus di bilancia commerciale rilevanti, e questa parte competitiva dovrebbe diventare il modello, ed ecco dove il ruolo delle enabling technologies è molto importante, dovrebbe diventare il paradigma per tutto il resto del sistema produttivo manifatturiero industriale italiano, con conseguenze anche sul sistema dei servizi. A mio avviso, proprio in questa direzione, il saggio di cui stiamo parlando, che è Enable Technologies, è un saggio di estremo interesse perché unisce, credo, semplicità di presentazione con profondità di analisi, e non è facile trovare un'elaborazione così, e Dairy dunque ha fatto un'opera a mio avviso di grande rilievo. Ecco, infatti in questo libro ci sono anche casi aziendali, esperienze concrete, prospettive molto molto concrete per vedere come queste tecnologie possono influire sul fronte appunto della crescita italiana. Ecco, professor Quadrio Curzio, lei nella sua prefazione cita il ruolo dell'Europa, questo piano Horizon 2020 che mette a disposizione 75 miliardi di fondi europei. L'Italia deve farsi avanti, deve farsi coraggio per avere in gran parte questi fondi. L'Italia deve farsi avanti, deve farsi coraggio, e qui credo che si dovrebbe introdurre una distinzione adeguata. In Italia ci sono centri di ricerca pubblica nell'ambito di grandi istituzioni di ricerca che funzionano bene, che collaborano con l'industria, che danno dunque quel surplus di competitività al nostro sistema paese, che sono in grado di accedere a questi finanziamenti. Da un altro lato ci sono invece soggetti di ricerca pubblica che non rappresentano situazioni adeguate al Horizon 2020 e che a mio avviso necessiterebbero di un'adeguata modifica e trasformazione, e per fare questo l'integrazione tra gli studiosi, gli scienziati che sanno fare tecnoscienza e la operatività delle imprese sarebbe molto importante. Ecco, a livello di operatività delle imprese, io vorrei appunto coinvolgere ancora il professor Ugo. Le imprese sono in un certo senso in Italia imprese di eccellenza, ma in alcuni casi c'è o si può pensare a una tecnologia diffusa, queste tecnologie appunto abilitanti possono costituire una risorsa anche per quel sistema di piccole e medie imprese che in fondo è la spina dorsale del sistema economico e produttivo italiano. Ma io penso di sì, certamente, certamente. Come le ho detto, non è detto che queste tecnologie vadano soltanto nel settore high-tech, per quanto noi abbiamo anche piccole e medie aziende high-tech molto brillanti in Italia, ma anzi io penso che vada a finire proprio in quella che recentemente Rocca, il dottor Rocca, anzi l'ingegner Rocca, ha citato le medium technologies, dicendo noi abbiamo in Italia una diffusione di tecnologie medie che sono poi parte portante di queste piccole e medie aziende, e io penso, sono quasi sicuro, che l'iniezione, proprio io ho usato la parola iniezione, proprio apposta come se fosse una calcestruzzo, ecco, una cosa di rinforzare il calcestruzzo, l'iniezione di piccole, anche piccoli concetti, piccole applicazioni di queste tecnologie abilitanti potrebbero portare dei vantaggi che non sono i soliti vantaggi marginali, ma potrebbero essere dei vantaggi più significativi in termini di competitività. Qua, sicuramente. Il problema grosso è che in Italia abbiamo nelle strutture pubbliche, l'ha appena citato adesso il collega Quadrio Curzio, delle eccellenze, ma non abbiamo mai fatto una politica di accentrare queste eccellenze in strutture di dimensione tali per cui le piccole e medie aziende sappiano bene dove andare a cercare l'aiuto per poter ottenere queste iniezioni. Questo è il problema, ed è un problema fondamentale, perché noi non sfruttiamo al 100% le eccellenze che sicuramente abbiamo, perché sono diffuse, sono diffuse spesso anche in gruppi troppo piccoli. C'è un problema veramente di riorganizzazione della struttura pubblica della ricerca, mantenendo un livello scientifico elevatissimo, ma anche cercando di trovare in questa ricerca delle linee che possono essere di ricerca applicata, dove questa eccellenza scientifica si trasforma rapidamente in qualcosa che è appetibile per la piccola e media azienda. Ecco, qui vorrei forse chiedere al professor Quadrio Curzio, proprio guardando a questa realtà, la realtà appunto di tecnologia, il fatto che l'Italia può avere quello che può essere un vantaggio competitivo dall'avere delle risorse umane che sappiano che sanno andare oltre la tecnologia, che sanno applicarla, che sanno trovare soluzioni nuove per problemi nuovi, che sanno in qualche modo mettere insieme non solo l'altissima scientificità, l'altissima tecnologia, ma anche la concretezza dei problemi, la concretezza appunto che è quello di realizzare delle cose, possiamo dirlo, magari che siano belle, che siano capaci di suscitare delle emozioni, che vadano al di là appunto della semplice tecnologia. La tecnologia ci vuole, ma ci vuole qualcosa di più. L'Italia, professor Quadrio Curzio, può avere, può dare questo qualcosa di più? Io credo che lo abbia dato, lo stia dando e potrebbe darlo in misura assai aumentata. Ed ecco perché questa sfida anche del Horizon 2020, della capacità italiana di accedere a quei finanziamenti, della capacità italiana di configurare soluzioni tecnologiche avanzate con quegli aspetti di design, di configurazione che in modo eccellente, come dire, caratterizzano i prodotti italiani, ebbene sia una strada da percorrere. Certo, non è una strada che si può percorrere da un giorno all'altro. Le aziende del quarto capitalismo italiano, che rappresentano ormai in tutta evidenza i nostri modelli vincenti, ci hanno messo almeno un decennio e forse anche di più a passare da una situazione di vantaggio competitivo legato alle svalutazioni a una situazione di vantaggio competitivo legato all'innovazione. Ebbene, bisognerebbe incanalare tutti gli altri in quella direzione. Ecco perché iniziative, lo ripeto, come quella di AIRI, è un'iniziativa molto importante e premiale. Ecco, direi che questa elaborazione dovrebbe essere un'occasione di riflessione, soprattutto, io credo, dell'apparato pubblico, ma anche di associazioni di categoria industriale italiana, che intendano intraprendere questa nuova via della competitività basata sulla innovazione. Grazie mille, grazie professor Quadrio Curzio, grazie professor Renato Ugo. Abbiamo parlato appunto di questa ricerca, di questo libro promosso dall'Associazione Industriale per la Ricerca Industriale. Il libro si intitola Le Key Enabling Technologies, un'occasione per la competitività del sistema industriale italiano. È stato curato da Sesto Viticoli e Luigi Ambrosio, una prefazione appunto di Renato Ugo e Alberto Quadrio Curzio, un libro in cui si passano in rassegna non solo le tecnologie ma anche i casi aziendali, le aziende, le imprese, le strutture anche pubbliche che sostengono la crescita tecnologica italiana. Il libro è edito da Guerini e Associati, sono 140 pagine per 16,50 euro. Grazie ad Alberto Quadrio Curzio e a Renato Ugo, grazie a quanti ci hanno ascoltato, l'appuntamento è per la settimana prossima.